was. Sentite, d'ora in avanti niente più Guns N' Roses e Soup Dragons, capito? Vi voglio a dieta stretta di Soul. James Brown a colazione, Otis Redding a pranzo, Smokey Robinson a cena e Aretha per gli spuntini fuori pasto. Il Soul ha il ritmo del sesso e anche il ritmo della fabbrica, ha il ritmo dell'operaio, del sesso e della fabbrica. Il soul è musica che il popolo capisce. Certo, è musica semplice, ma ha qualcos'altro, qualcosa di speciale. È onesta, ecco, è sincera. Non è musica stronza. Ha il coraggio di dire che viene tutto dal cuore. Certo, c'è un sacco di musica che dà piacere, ma il soul dà più di questo. Il soul ti porta lontano, ti afferra per le palle e ti tira fuori dalla merda. Ben trovati a questa nuova puntata di Soul Time, puntata che precede l'evento che avremo sabato, questo sabato al CSA Next Emerson, evento chiamato Dance Fast, in cui avremo il grande piacere di ospitare da Bologna, direttamente dalla crew di Bologna calibro 7 pollici, Michele Coco e Fat Fabio. Una serata in cui Soul Time andrà in pista insieme proprio alla, grazie alla collaborazione con il CSA Next Emerson e il festival sull'autoproduzione, sul do it yourself Brugole e Merletti. Vi ricordo sabato 21 aprile a partire dalle 22 una caterva di 7 pollici gireranno sui piatti e il tutto sarà amplificato dall'Emerson Setter Sound System, anche questo impianto autocostruito. Potrete ascoltare tantissimo soul, funk, gospel, funk, popcorn, R&B, modern e naturalmente Northern Soul. Dopo questo inizio con l'annuncio pubblicitario, ho qui con me sul giradischi già pronti un paio di dischetti. Dischetti che tra l'altro appartenevano con grande mia sorpresa alla collezione di mio nonno. Ne ho un paio che vi faccio ascoltare questo pomeriggio. Partiamo con un disco etichetta Motown, naturalmente edizione italiana Vatte la Pesca dove lo comprò, edizione italiana della Motown, con un brano scritto da Bill Robinson e prodotto anche dallo stesso Bill Smokey Robinson ed eseguito da Mary Wells, brano molto molto conosciuto, si intitola My Guy. Due cenni storici su Mary Wells. Mary Wells, nata nel maggio del 43 e scomparsa nel luglio del 1992, è stata una cantante americana che ha contribuito a definire decisamente il sound emergente proprio della Motown nei primi anni 60, insieme ai Supremes, ai Temptation, ai Four Tops e diversi altri. Poi la Wells ebbe una carriera molto molto importante, essendo è stata anche candidata a diversi diversi premi Grammy, i premi che ricordo della musica americana. Ed è stata riconosciuta come la Queen della Motown proprio perché iniziò fin proprio dagli inizi di questa etichetta discografica a collaborare con questa etichetta di Detroit. Il suo successo sicuramente maggiore è stato My Guy, brano del 1964, che io ho qui sul giradischi di sinistra in edizione dedicata al mercato italiano. Ce l'andiamo ad ascoltare subito con i suoi 40-50 anni di gracchio ereditato. Quindi, magari con Mary Wells. Questa era Mary Wells con My Guy su etichetta Motown. Rimaniamo in ambito di grandi successi con i dischetti ereditati dalla collezione del buon nonno Matteo. E il prossimo brano è del grande Brenton Wood, Alfred Jesse Smith, conosciuto, meglio conosciuto come col suo nome d'arte, Brenton Wood, cantante soul statunitense nato nel 1941, conosciuto soprattutto per i suoi due successi del 1967, il primo che si intitolava The Hogum Bogum Song e il secondo, forse ancora più famoso, Gimme Little Sign. Questo brano raggiunse addirittura la prima posizione nella classifica italiana dei singoli più venduti nella seconda metà del 1968 per 2 settimane. Poi nell'anno successivo, nel 69, partecipò anche al Festival di Sanremo con il brano Il Treno, cantata in coppia con la cantante italiana Rosanna Fratello. Vi dicevo appunto, i suoi brani più famosi sono Ogum Bogum Song e Gimme Little Sign. Brenton Wood è nato in Louisiana, ma si trasferì con la famiglia a San Pedro, nei pressi di Los Angeles, in California, proprio quando era bambino. Lì frequentò, insomma, le scuole, andò a scuola, frequentò il college, eccetera, eccetera, e poi iniziò ad esibirsi e a coltivare la sua capacità di compositore e cantante, ispirandosi a grandi figure come Jesse Belvin e il grande Sam Cooke, diventando col tempo anche un grande pianista. Quindi ci andiamo ad ascoltare un altro disco gracchiante, originale dell'epoca, destinato al mercato americano, scusate, al mercato italiano, dischi americani destinati al mercato italiano. Questo che è in mio possesso è sull'etichetta Bell Disc Italiana. Ci ascoltiamo Gimme Little Sign, lui è Brenton Wood. You do want me, give me a little sugar. If you don't want me, don't leave me on down. But if you need me, show me that you love me. And when I'm feeling blue, and I want to, there's just one thing that you should do. Just give me some kind of sign, girl, of my baby, to show me that you're mine, girl. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my darling, to show me that you're mine, girl. All right. If you do want me, give me a little sweet talk. If you don't want me, don't leave me on, girl. But if you need me, show me that you love me. And when I'm feeling down, wearing a frown, you'll be there when I look around. Show me that you're mine, girl. All right. Just give me some kind of sign, girl. Up, my baby. Just show me that you're mine, girl. Brenton Wood con Gimme Little Sign, eccolo qua. Allora, terminati i due dischetti che ho estrapolato da quelli ereditati dal buon Matteo il Falegname, cioè il mio nonno, proseguiamo con la figura di Len Barry. Len Barry, nato Leonard Borisov nel 1942 a West Philadelphia. Cantante, cantautore e produttore discografico americano. Come vi dicevo, nato e cresciuto proprio a Filadelfia, in realtà Barry non aveva aspirazioni nel mondo della musica e dello spettacolo da ragazzo e da adolescente. In realtà il suo obiettivo era diventare un giocatore di basket professionista subito dopo aver terminato il college, ma la carriera, o meglio, il servizio militare gli fece cambiare idea quando ebbe occasione di esibirsi con la banda della Guardia Costiera americana nel New Jersey, e così, incoraggiato dalla risposta del suo pubblico militare, decise di fare della musica una carriera. Al congedo proprio dal servizio militare, Barry tornò a casa a Filadelfia e formò il gruppo The Dovells, di cui era il cantante principale. Gruppo che ebbe modo di vendere molti molti dischi, e la sua è proprio la voce principale di tutti i dischi più venduti. Dischi come Bristol Stomp, Halli Galli Baby e You Cannot Sit Down, tra gli altri. Proprio Bristol Stomp ebbe modo di vendere milioni di copie e di vincere un disco d'oro. Niente male, insomma, per uno che della carriera musicale, di fare musica, fino a pochissimo tempo prima non gliene importava un granché. Ha avuto anche diverse apparizioni cinematografiche ed ha avuto anche modo di esibirsi sul palco con James Brown. Come cantante R&B registrò dei grandi successi nel 65 e nel 66 per la Decca Records, in particolare un brano intitolato 1-2-3 è distribuito dalla Brunswick Records ed è proprio quello che ci andiamo ad ascoltare qui direttamente su 7 pollici. Ci ascoltiamo 1-2-3 di Len Barry. Questo era Len Barry con 1-2-3, uno dei suoi più grandi successi da solista. Proseguiamo la nostra selezione 100% in vinile su supporto 45 giri quest'oggi con i Chairman of the Board, gruppo americano barra canadese di base a Detroit nel Michigan, un grande gruppo di musica soul che ebbe il suo periodo di maggior successo negli anni 70. General Johnson era il lead singer, il cantante principale degli Showmen nei primi anni 60. Ebbe modo, insomma, di incidere con il gruppo degli inni, dei successi clamorosi come It Will Stand, il classico ve lo dico in italiano, 39 21 40 shape. Poi quando il famosissimo trio, almeno famosissimo per gli amanti e conoscitori del genere soul, il trio Holland, Dozier, Holland, lasciò la Motown nel 1967 per creare una propria etichetta discografica, la Invictus Hot Wax, chiamarono proprio con loro Johnson per seguirli in questa loro avventura, e da lì vennero fuori diversi grandi brani di importante successo. Ebbero modo di registrare parecchi album, soprattutto a partire dal 1970 fino all'ultima antologia stampata nel 2006. Dei Chairman of the Board vi propongo proprio un brano del su etichetta dell'epoca Invictus, quindi come vi dicevo etichetta fondata dal trio Holland, Dozier, Holland dopo aver lasciato la Motown. Ci andiamo ad ascoltare questo brano che si intitola You've Got Me Dangling on a String. Chairman of the Board con You've Got Me Dangling on a String. Il prossimo brano già pronto qui sul giradischi è un 7 pollici di Jimmy Thomas che si intitola Beautiful Night. Jimmy Thomas fu un per lungo tempo vocalist dei King of Rhythm di Ike Turner, ma ha registrato anche una serie di singoli su 7 pollici molto molto amati anche dai collezionisti di Northern Soul. Jimmy Thomas, nato nel 39 in Arizona, è cresciuto immerso nel gospel e nel blues. Tra l'altro, Albert King, di cui ci siamo ascoltati un brano puntata scorsa, era proprio un amico della famiglia Thomas. Jimmy Thomas formò il suo primo gruppo R&B mentre era ancora al liceo, su raccomandazione proprio di Albert King, e nel 1958 si recò a St. Louis per incontrare Ike Turner, che stava cercando proprio un cantante dopo l'uscita dal gruppo di Clayton Love. Thomas rimase con Ike Turner per 8 anni, registrando una grande quantità di singoli. Poi si distaccò dal gruppo per iniziare a incidere diversi singoli, indipendentemente, insomma, dal rapporto che aveva con Ike, e successivamente anche con Tina Turner. Uno di questi singoli è quello che abbiamo qui sul giradischi questo pomeriggio, qui a Soul Time su Radio Wombat, e si intitola The Beautiful Night. Ce lo andiamo ad ascoltare. Jimmy Thomas, Beautiful Night. Thomas con Beautiful Night su questo dischetto 20th Century Records, brano prodotto dallo stesso Jimmy Thomas per la Horse. Proseguiamo con la musica, con i nostri cantautori e cantanti soul. Il prossimo che ho qui, eccolo qua sul giradischi, pronto per ascoltarcelo, è un brano di Hoagie Lenz. Hoagie Lenz, nato nel 1936 e scomparso nel 2002, cantante originario del New Jersey. Hoagie Lenz, in realtà non si hanno tantissime informazioni, o almeno io non ne ho reperite moltissime. Si sa appunto che è nato nel New Jersey da padre afro-cubano e madre afro-americana di origine indiana-americana. Poi quello che si sa anche di Hoagie Lenz è che formò da giovanissimo un gruppo quando era alla Roosevelt Junior High School, un gruppo chiamato TNB, The New Brunswick Dynaflows. La sua carriera discografica risale dalla fine degli anni 50 fino alla metà degli anni 70, registrando anche alcuni duetti con Lily Field. Poi fece nel 2002 anche alcune apparizioni in Inghilterra. Io vi propongo questo brano su etichetta Lowry Records di New York, brano anche questo molto conosciuto dagli appassionati di Northern Soul. Il brano in questione è Theme from the Other Side, Hoagie Lenz. Ok, e questo era il nostro dischetto Lowry con questa strumentale di Hoagie Lenz intitolata Theme from the Other Side. Proseguiamo da Hoagie Lenz, di cui si hanno poche informazioni, a un gruppo di cui se ne hanno ancora meno, si sa praticamente nulla. Il gruppo in questione è Frankie and the Classical. Io ho questa ristampa su 7 pollici di un disco originariamente stampato nel 1974 con questo brano che si intitola What Shall I Do. Di questo brano sicuramente si sa che è un brano scritto da Teddy Van, quindi ha perlomeno quello che lo ha scritto e tra l'altro lo ha anche prodotto, perlomeno si sa che è Teddy Van. Per il resto si sono fatte diverse illazioni, c'è chi pensa che sia un gruppo di Filadelfia, chi pensa che sia un gruppo di New York. Ci sono idee che potrebbero esserci alcuni componenti delle Ronettes, insomma, le illazioni sono diverse, quindi inutile perderci in chiacchiere. È un gruppo molto molto oscuro, come nel tempo abbiamo avuto modo di ascoltare qui a Soul Time. Non di tutti i gruppi soul è rimasta traccia della loro storia, dei componenti, eccetera, eccetera. Però in questa sede, fondamentalmente, poi quello che ci interessa è la musica. Quindi ci ascoltiamo Frankie and the Classicals con questa oscura What Shall I Do? And the Classicals con What Shall I Do? Proseguiamo con la musica, proseguiamo con una figura molto molto importante per quanto riguarda il soul. Infatti non mi dilungherò con le chiacchiere, proprio due cenni due. Il disco che stiamo per ascoltarci è quello del grandissimo Solomon Burke, cantante nato a Filadelfia nel 1940 e scomparso nel 2010 in Olanda. Cantautore davvero importantissimo, membro della Rock and Roll Hall of Fame, chiamato spesso il re del rock and soul. Iniziò in realtà, diciamo, la sua carriera musicale conducendo uno spettacolo radiofonico di musica gospel, essendo il Solomon Burke un reverendo, un predicatore, per poi firmare negli anni 70 un contratto con la Atlantic Records, e da lì si aprì per lui una carriera davvero, davvero molto importante. Io vi propongo questo brano su etichetta Bell Records di Solomon Burke, che si intitola I Can't Stop, brano scritto da Dan Penn e Roger Hawkins. Understand that I'm not here to play. grandissimo pezzo questo di Salomon Burke. La puntata è praticamente finita, rimane il tempo per un ultimo pezzo. Io vi ricordo che Soul Time lo ritrovate mercoledì prossimo alle 17.30, sempre e solo su Radio Wombat, in replica alle 10 di mattina venerdì, e il sabato alle 21. Lo potete ascoltare sulle frequenze in onde medie sul 1359 sulla vostra radio o autoradio, o in streaming sul nostro sito di Radio Wombat, noblogs.org. Vi rinnovo caldamente l'appuntamento per sabato. Questo sabato ci trovate dalle 22 in poi al CSA Next Emerson insieme a Michele Coco e Fat Fabio per ascoltarci questi e tantissimi altri dischi soul, per una selezione che durerà a lungo, quindi vi invito a venire a fare quattro salti. Monteremo per l'occasione il sound system autocostruito Emerson Setter Sound System, e vi ricordo che la giornata inizia già dal primo pomeriggio con il festival sull'autocostruzione, sul do it yourself, Brugole e Merletti, e proseguirà anche il giorno successivo, domenica 22. Quindi vi ricordo, questo sabato dalle 22 in poi tantissimi giri, 45 giri al CSA Next Emerson di musica soul, gospel, funk, R&B, e che chi più ne ha più ne metta, con Michele Coco, Fat Fabio e la divisione soul di Emerson Setter Sound System, una serata promossa da Brugole e Merletti, CSA Next Emerson e da questa trasmissione Soul Time. Io vi lascio con un brano del grandissimo Otis Redding. Non c'è molto da raccontare su questa grandissimo artista. Vi lascio in relax con un brano secondo me molto molto bello. Il brano è di Otis Redding e si intitola Fa Fa Fa Fa Fa. Otis Redding. Alla prossima puntata. Ciao a tutti e a tutte.